Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. 380.000 tonnellate l'anno di pneumatici giungono a fine vita nel nostro paese, in Italia. Fino a pochi anni fa c'era un problema gigantesco di traffico illegale di questi rifiuti. Ora invece, grazie a un sistema che coinvolge produttori e installatori di pneumatici che davvero non lascia scampo, quasi il 100% degli pneumatici usati viene intercettato e avviato a una seconda vita, che può essere anche molto breve però, laddove venga semplicemente utilizzato come combustibile. Per esempio nei cementifici. Pensate che gli scarti di pneumatico hanno lo stesso potere calorifico del carbone. Ma c'è un'altra possibilità per far sì che questa vita, questa seconda vita, diventi invece molto lunga. E soprattutto di questo secondo caso che ci parlerà Chiara Albicocco, che per Smart City ha incontrato Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus, il consorzio senza fini di lucro che gestisce la raccolta degli pneumatici usati. Sentiamo. Allora, quando un pneumatico arriva alla fine della vita e non può più essere in nessun modo reimpiegato per la funzione, diciamo, di circolazione stradale, viene appunto considerato un rifiuto e viene preso, raccolto in tal senso e viene in prima battuta frantumato. La frantumazione è un passaggio fondamentale perché non ci sono di fatto applicazioni che permettono di usarlo intero così come noi lo conosciamo. Mm-hmm. Questa frantumazione può essere diciamo primaria e quindi formare delle pezzature di parti di 5-10 centimetri di lato, fino poi invece ad arrivare a dei polverini finissimi, quasi dei borotalchi, vorrei dire, seppur nero, dove quindi la finezza è veramente la caratteristica esclusiva di questo materiale. Ecco, a seconda quindi della grana, ecco, possiamo chiamarla così, hanno una destinazione diversa. Sì, ad ogni dimensione corrisponde un impiego e quindi andiamo a cominciare dai grani, ecco, sì, che sono quelli o più grossi di dimensione, trovano impiego ad esempio nel mondo dello sport, in tantissime applicazioni. Nello sport possono essere utilizzati per l'intaso dei campi di calcio artificiali, sono campi di calcio in cui l'erba è costituita da fili di plastica, una specie di... L'erba sintetica, che penso che sia conosciuta così. Per essere sostenuta in piedi e quindi poter permettere al giocatore di fare la sua attività e nello stesso tempo dare delle superfici elastiche all'atleta, si deve inserire questo granulo di gomma che permette di appunto dare la caratteristica necessaria al giocatore di calcio. Uh-huh. Poi a me vengono in mente ad esempio le piste di atletica, quelle per intenderci rosse intorno agli stadi. Abbiamo piste di atletica, abbiamo pavimenti di palestre, abbiamo i campi di pallacanestro, abbiamo dei sottostrati per i campi di pallavolo, pallamano, abbiamo non ultimo le piste dove si allenano i cavalli, dove una volta i cavalli erano abituati a muoversi su, diciamo, zone sabbiose, si preparava un letto di sabbia che però richiedeva anche di essere costantemente bagnata, mantenuto. E oggi sempre più invece questa sabbia viene sostituita per una di gomma, con vantaggio sempre sulla risposta elastica che questo suolo dà, a vantaggio dell'animale in generale e anche del fantino quando gli capita di ruzzolare, perché si è verificato che ci sono meno incidenti, meno danni. Perché una delle caratteristiche è proprio appunto l'elasticità, che viene poi diciamo mantenuta anche in quei granuli un pochino più sottili che vengono utilizzati ad esempio per gli asfalti, no? Certamente, questa è un'altra grande famiglia di applicazioni, perché si è scoperto molti anni fa che mescolando il bitume con varie gradazioni di granuli di gomma si ottiene un bitume elastico che può essere molto ben utilizzato per fare l'ultimo strato, quello che noi vediamo, della superficie stradale. Questo manto con l'aggiunta di granuli di polverini acquista una sua certa elasticità che previene la formazione di quelle screpolature che spesso notiamo, riduce di molto la formazione di buche e quindi dà alla strada una vita molto più lunga tra una manutenzione e l'altra, ma soprattutto abbatte di molto il rumore dei mezzi che ci passano sopra, in misura molto sensibile. E quindi non solo l'automobilista ne ha un giovamento, ma anche i cittadini che vivono a lato di strade molto trafficate. E facendo un rapporto, il costo di un asfalto, diciamo, addizionato con questo granulato di gomma, in realtà costerebbe di più o di meno? Quando venisse progettata ex novo una strada fatta in questo modo, i costi sarebbero pressoché uguali rispetto alle tecniche attuali. Quando invece si interviene, come il caso oggi certamente più frequente, su una strada già fatta e quindi si va ad apportare un manto superficiale sostitutivo ad un qualcosa che già c'era, i costi sono un pochettino più alti, si spende circa il 10-15% in più. Se pensiamo però che la vita della strada diventa da doppia a tripla, è chiaro che in un bilancio economico per qualunque soggetto che ordina la strada, la costruisce e la realizza, c'è un enorme vantaggio. Le ammortizziamo. Mi dica se sbaglio, ma ho sentito parlare di applicazione di questi pannelli fatti appunto da pneumatici riciclati anche nelle ferrovie, cioè sotto i binari, per ridurre lo sfregamento e l'attrito, soprattutto nelle stazioni. Qui entriamo in una, diciamo, terza grande famiglia di applicazioni, che sono pannelli, mattonelle o componenti in generale per ridurre la trasmissione del rumore e la trasmissione delle vibrazioni. Il grano di gomma si presta molto bene nell'edilizia in generale, anche abitativa, nelle costruzioni industriali e in tutto il sistema metroferro tranviario, per fermare le vibrazioni che si trasmettono da un punto all'altro del mezzo che passa, rotaia, traversina e così via. Beh, mi sembra che gli impieghi siano veramente numerosi. Abbiamo ancora altri di interessanti. Mi dica. Abbiamo per esempio tutti i manufatti per la sicurezza lungo le strade. Noi oggi siamo abituati a vedere lungo la strada oggetti in cemento, in pietra, in acciaio, mentre molti di questi possono essere o sostituiti o rivestiti con gomma per ridurre nei punti più pericolosi il danno che può capitare a un automobilista, un pedone o un ciclista che dovesse andare a sbattere. Quindi dossi, semafori, cordoli e quant'altro, sì, giusto? Ma non solo, semafori agli incroci, certo. Paracarri, guardrail. Ecco, le chiedo un'ultima cosa. Quanti impianti in Italia abbiamo che fanno questo tipo di riutilizzo? Perché gli impieghi abbiamo capito che ci sono. Allora, gli impieghi sono numerosissimi, ma sono tutti ancora molto acerbi, sono agli inizi della loro fase di sviluppo e quindi assorbono ciascuno quantitativi modesti, per cui ancora oggi molto importante il recupero energetico a cui accennavo prima. Ed è per questo che ne parliamo qui a Smart City anche. Sì, abbiamo proprio bisogno di pubblicizzare questi nuovi impieghi, renderli più friendly anche al cittadino, in modo che il cittadino sia più sensibile a questi buoni utilizzi che si possono fare. Insomma, raccogliamo quasi il 100% degli pneumatici usati, ma non li usiamo ancora al meglio, ne bruciamo troppi. Ci si potrebbe fare qualcosa di più costruttivo e probabilmente anche di più redditizio. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.